Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. E siamo arrivati alla doppia cifra. È la settimana numero 10 di Eclettica sulle frequenze di Rock FM. Giulio Caperdoni in vostra compagnia, quattro parti ogni settimana che vengono mandate in onda la prima volta dal martedì alle ore 22 per le quattro sere che portano fino al venerdì. Poi sabato e domenica si ricompattano 2 a 2, ma sempre alle 22. E poi avete la possibilità di scegliere voi il modo e l'orario, avvalendovi del podcasting. Come utilizzare il podcasting? Come avvalervi del podcasting? Un modo per arrivarci è myspace.com/eclettica. E visto che ci sono, con gli indirizzi vi do anche quello personale: giulio@radiorockfm.com. Tra le altre cose, per iscrivervi alla lista nera. Doveva essere il 1963, perché all'Alexandra davano il musical di Dombey and Son. E doveva essere d'autunno, perché fu certamente un giorno di ottobre che una rappresentazione subì un grave ritardo. Due della compagnia erano scivolati e si erano fatti male nel corridoio B dei camerini, perché a quanto pare il pavimento era stato inondato da qualcosa di appiccicoso e colloso. L'inondazione era stata provocata da uno dei ragazzini più piccoli del balletto. Costui aveva trovato il modo di manomettere il meccanismo della macchina del caffè del corridoio B, così da farle ignorare le prime 50 monetine da 6 pence che vi fossero state introdotte. Questo era l'incipit di Da Freddy di Penelope Fitzgerald. Is this the price we pay for progress? Taking one step forward for every 6 we take back. Does your dirty oil stain money make you happy? Do you just want to be remembered? Book your place in history. Reform, reform. Oh, you are taking a part. What we made with our hands and our hearts. Our hands and our hearts are not just tools to ply your trade. They're ours to live our lives. And you're taking them away. Feel free to wrap your hands around my neck. I'll feel free to do the same. Feel free to wrap your hands around my neck. Feel free to do the same. Reform, reform. Qualcuno. No, non lo so io. Scusatemi, scusatemi. Helga. È stato... Non so spiegarlo. Era qualcosa di strano. Come una lama. Che entrava nella mia carne. Vi prego, scusatemi. Adesso va meglio, grazie. La sento di nuovo. È qui. Io sento la morte. There's a gloom around the spark. To fire up the dark. Sparrow è il titolo del brano che vi siete appena ascoltati in Eclettica, il suo secondo passaggio, un disco uscito per la Fat Cat Records da parte della band Amandine, che poco dopo aver cambiato il loro nome rispetto all'originario che era diverso, appunto, si sono accasati per il solo etichetta inglese e ci hanno fatto ascoltare questo brano, sempre in Inghilterra, però anche per quanto riguarda la band. In apertura di Eclectic, I Like Trains, Progress Reform, il titolo dell'album, dal quale solitamente ci ascoltavamo Terra Nova. Quest'oggi invece, invertendo proprio l'ordine, andando a prendere l'ultimo anziché il primo brano, The Beeching Report ci ha fatto conoscere un'altra faccia degli I Like Trains, anche se la voce baritonale del cantante rimane sempre quella ed è anche estremamente riconoscibile. Ora, prima di passare all'Islanda ed un nuovo artista islandese, vi voglio elencare quali sono i biglietti dei concerti che avete la possibilità di andare a vedere gratuitamente grazie ad Eclettica. C'è ancora qualcosa che riguarda i Soda Stream, per esempio il concerto del 25 al Bronson di Ravenna. C'è qualcosa che riguarda ancora gli Arab Strap, basta, per quanto riguarda la data di Milano e anche per quanto riguarda la data di Firenze. Per queste due date sono andate completamente esaurite le mie disponibilità. Rimane qualcosa invece per l'Estragon di Bologna il 24 e il 26 all'Hiroshima di Torino. Tutto questo per il tour di addio degli Arab Strap. Poi il 27 invece al Rainbow ci saranno gli Io La Tengo e il 26 ai Magazzini Generali, stavo dicendo Tunnel, ma no, Magazzini Generali, è stata cancellata la prima location, non è più Tunnel, ma Magazzini Generali per Stuart Staples. Questo il 26. Per vincere uno di questi biglietti basta scrivere a giulio@radiorockfm.com. Vi parlavo di Islanda ed eccoci qua, un artista che di nome fa Bela. È nato come un visual artist, ha girato parecchio il mondo a portare la sua arte, si è dilettato anche a suonare in maniera non molto professionale, passando dall'electro a soprattutto il death metal, che era il suo genere musicale di riferimento, anche se non si direbbe ascoltandolo in questo esordio solistico e completamente acustico. Hole and Corner è il titolo dell'album, che esce per una piccola etichetta scozzese di nome Say Dirty Records, e il brano che ci ascoltiamo è il brano che ha per titolo Down, traccia numero 5. Quando io ho sentito questo disco per la prima volta ho fatto un sobbalzo sulla sedia. In certi momenti mi ricordava, ma veramente tanto, Nick Drake. avverto una presenza. Sono entrato in contatto con una mente perversa. I suoi pensieri sono pensieri di morte. Via! Oh! Oh! Tu hai già ucciso e sento che ucciderai ancora. Quel canto infantile e quella villa laggiù. Quel sangue! Ah, ah, ho paura! Ho paura! Sta calmo, basta! Basta, ho detto! Sì, sì, nascondiamo tutto, tutto! Come se non fosse accaduto niente! Nella villa tutto deve tornare come prima! Nessuno sa, nessuno deve sapere! Dimenticare, dimenticare ogni cosa! Per sempre! Per sempre! Per sempre! Cantato è in svedese, seconda band svedese di questa parte di Eclettica, la prima però cantava in inglese. Loro sono gli Ingenting, quelli con le parentesi quadre, li notate subito nelle playlist di Eclettica. Punk Drummer è il brano che ci siamo ascoltati in precedenza, invece da Genova, una delle band italiane del momento di Eclettica, The Banshee, e invece si chiude questa prima parte di Eclettica in una settimana caratterizzata da un film che magari qualcuno di voi potrebbe cominciare a indovinare. Secondo me, dai, qualche fan di questo film c'è all'ascolto e già ha indovinato che film è. Magari nella seconda parte vi dico qual è il titolo senza farvi aspettare la playlist di fine settimana. Si chiude con un disco Polyvinyl Records, un debutto che arriva dalla città di Chicago. Loro si chiamano The Ems e questa è Plan of the Man. Alive in name and on a plane that's separated by a great deal. Eclettica. Fine della prima parte.